Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Per i robot indossabili, detti anche esoscheletri o, per chi ne sa di più, ortesi attive, è venuto il momento di uscire dai laboratori ed andare per il mondo. Ne sono convinti i fondatori di Yuvo, startup della Scuola Sant'Anna di Pisa, che recentemente ha ricevuto un finanziamento molto importante da Comau e Ossur, che sono due imprese italiane specializzate rispettivamente in robotica e tecnologie biomediche. Perché anche in questo finanziamento? Beh, perché lo scenario dei prossimi decenni sarà segnato da una crescente popolazione di anziani che vogliamo rimangano attivi e indipendenti, e in questo senso le patologie dell'apparato motorio rappresentano uno dei principali ostacoli, e qui la robotica indossabile può fornire una risposta efficace, e come vedremo anche in altri settori. Ne parliamo con Nicola Vitiello, responsabile scientifico del Wearable Robotics Laboratory dell'Istituto di Biorobotica dell'Università Sant'Anna di Pisa e cofondatore di Yuvo. Buonasera, buonasera Vitiello, benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera. Senta, allora Vitiello, nel vostro sito si legge che la missione del vostro laboratorio è quella di inventare, realizzare e validare robot indossabili innovativi per assistere, riabilitare o accrescere specifici movimenti. Ecco, io ho l'impressione che in questi tre verbi si nascondano proprio i tre mondi che in qualche modo, forse anche più di tre, ma insomma sono di riferimento per chi si occupa del vostro campo. Insomma, mondi nei quali la robotica indossabile pensate che abbia un futuro. In realtà è esattamente così. Noi pensiamo che queste macchine, che possono essere considerate dei robot a tutti gli effetti indossabili, possono avere una utilità sicuramente da un punto di vista riabilitativo, quindi è un po' forse il settore più scontato, dove ci sono in qualche modo delle disabilità e la macchina magari può essere utilizzata per permettere un recupero funzionale. Il caso emblematico è la riabilitazione, ad esempio, successivamente a un caso di ictus. Certo. Oppure, dove ricordiamo, bisogna ripetere almeno migliaia di volte dei movimenti volontari, e qui i robot, per esempio, possono trasformare in gioco questa attività, no? Ne abbiamo parlato in alcune puntate. Certo, in questo caso il robot, diciamo, fa qualcosa di molto semplice, fa un po' quello che fa il terapista, aiuta quando è necessario, oppure rende, come lei giustamente diceva, attraverso delle interfacce con realtà virtuale, in molti casi trasforma l'esercizio riabilitativo in un qualcosa di più interessante, come fosse a tutti gli effetti una sorta di videogame, mi passi l'espressione. E questo è quello che giustamente lei diceva essere l'ambito riabilitativo. Poi c'è l'ambito che viene chiamato di assistenza, laddove in realtà la disabilità magari più lieve e comunque in qualche modo cronica, o semplicemente il naturale processo di invecchiamento della persona, no? Quindi diventando anziani si diventa un po' tutti disabili, questa volta ci si dimentica di questo aspetto. Allora il robot indossabile può essere un aiuto a recuperare parte della funzionalità motoria persa, o comunque può funzionare come un amplificatore di quella che è la capacità motoria residua. Io magari sono anziano, cammino a 1,5 km, 2 km all'ora, vorrei poter camminare a 2,5 km, comunque andare un po' più veloce. Sì, o sollevare con meno, certo, o immaginiamo un domani sollevare, no, un peso con meno fatica, cose di questo genere. Terzo mondo, che forse è quello in cui per primo vedremo delle applicazioni di questi robot indossabili. Sì, è quello degli operatori, degli operai. Noi oggi abbiamo una forza produttiva che sta invecchiando, quindi noi abbiamo necessità, parlo da bioingegnere perché io sono un bioingegnere, di questo diciamo ne vado molto orgoglioso. Noi cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni che permettono alla persona di avere delle condizioni le più ergonomiche possibili. Ecco, oggi si fa tanto in termini di ergonomia sul posto di lavoro per migliorare anche la qualità della vita quando si è a casa. Noi pensiamo che con queste macchine possiamo contribuire ulteriormente a ridurre il sovraccarico articolare in alcuni distretti del corpo, ad esempio la spalla oppure la zona lombare, con l'obiettivo di, riducendo lo sforzo, migliorare la qualità percepita della vita sia durante, diciamo, l'esperienza lavorativa che quando si va a casa. Dunque, in qualche modo lei dice quindi che il settore industriale è quello in cui queste tecnologie sono più mature per esordire. Per quanto riguarda gli altri due, ci siamo però, mi sembra di capire. Sì, in realtà diciamo questo, che dopo circa 50 anni di ricerche in ambito wearable robotics, forse diciamo questo decennio è quello si sta scollinando, no? Sì, quello che le tecnologie effettivamente stanno lasciando il ruolo di proof of concept, quindi di prova di fattibilità, e lentamente, ma con diciamo robustezza, si avviano verso, verso il mondo reale. Questo sta avvenendo in tutti i comparti menzionati, perché ci sono ormai esoscheletri utilizzati per i paraplegici, quindi non so, è il caso di Rework, del dispositivo della Exo Bionics, ma ci sono anche altri player che stanno portando sul mercato soluzioni per gli operai. Quindi diciamo questo, che cosa si è capito negli anni? Che bisognava forse abbassare un pochettino l'ambizione, cioè cominciare a portare queste tecnologie in ambienti, sì, della vita di tutti i giorni, ma con un minimo, diciamo, di supervisione e di struttura, perché comunque l'ambiente industriale è un ambiente, tra virgolette, supervisionato o comunque controllato, non è l'ambiente random, diciamo, della strada, per intenderci. O della casa, o della casa dove qualunque succede di tutto, esatto. E così come i dispositivi medicali, anche in questo caso, sono stati utilizzati prima a partire dai centri clinici, dove in qualche modo c'è la possibilità di strutturare un minimo un po' quello che è il, lo scenario di utilizzo. Questo è importante perché lei si immagini un robot che si indossa, è una sfida in termini di sicurezza per gli ingegneri non trascurabile, quindi bisogna veramente andare con i piedi di piombo, non si può rischiare di danneggiare la persona in nessun caso, quindi noi da ingegneri che lavoriamo in questo ambito ci preoccupiamo di questo aspetto. Ecco, rapidamente sgombriamo a proposito il campo da un possibile equivoco. Questi sono dei robot, quindi hanno una componente di intelligenza, ma diciamo non c'è l'elemento sopraffattorio, ecco, non può accadere. No. Diciamo così. Al di là degli scenari da Terminator, è chiaro che una gamba non può conquistare il mondo, però voglio dire una gamba robotica, però non può nemmeno impazzire, diciamo, ecco così, farti camminare per sei anni. Ecco. Direi che gli scenari sono molto lontani da quelli di non so, Iron Man, Elysium. I nostri robot sono intelligenti nella misura in cui devono capire quello che l'utente vuole fare in quel momento. Se correre, camminare sempre a servizio dell'uomo, non esiste nemmeno lontanamente. Tutto il resto è science fiction, è bello per fare un qualcosa a Hollywood, ma noi siamo molto concreti e sono delle macchine queste che invece devono avere soprattutto affidabilità, devono essere talvolta, mi passi l'espressione, anche un po' stupide per certi aspetti, ma quelle per cui vengono sviluppate devono saperlo fare bene e in modo affidabile in qualunque condizione. E se sottoposte a stress, ad esempio da una martellata all'esoscheletro, l'esoscheletro deve smettere di funzionare in modo sicuro per l'utente. Questa è la verità. Senta, veniamo a Yuvo e ai vostri primi progetti, sono un paio, quelli che avete già deciso insomma di sviluppare commercialmente a partire dal 2018. Quali sono, brevemente, se ce li descrive? Sì, allora, in particolar modo un esoscheletro arriverà sul mercato nel 2018 e sarà un dispositivo per l'assistenza agli operai, un tutore per l'assistenza alla spalla, un dispositivo addirittura in questo caso assolutamente passivo, quindi si dice spring loaded, quindi un dispositivo a molle che allevierà la fatica a livello della spalla in operai che fanno task ripetitivi. Questo sarà portato sul mercato da Comau. Il secondo dispositivo, che invece sarà portato sul mercato da Ossur, sarà un dispositivo per l'assistenza al cammino, pensato essenzialmente come un dispositivo medicale, quindi per persone che hanno lievi disabilità, diciamo persone che hanno necessità di un potenziamento della camminata, e in questo caso i tempi sono un po' più lunghi, essendo un dispositivo medicale si parla di circa 3 anni insomma, ecco, per averlo sul mercato. Allora, noi ci fermiamo qui, ma continueremo a parlare di robotica indossabile nella puntata di domani, con la quale cercheremo di lanciare uno sguardo verso il futuro, quindi al di là delle possibilità, diciamo così, della tecnologia attuale. Grazie per intanto, Vitiello. Grazie a voi, arrivederci. Appuntamento a domani.